Carissimi radioascoltatori, buonasera. Anche oggi iniziamo questa nostra catechesi sul credo proclamando il simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Questa sera parleremo della comunione dei santi e della remissione dei peccati. Dio ha creato solo fratelli senza frontiere su un pianeta, la Terra, senza frontiere. I confini li abbiamo messi noi uomini, non Dio. Tutta l'umanità è un'immensa e unica foresta dove tutti gli alberi hanno la loro radice nel cuore di Dio Trinità. Quindi tutti noi abbiamo l'origine dal cuore, dal profondo dell'amore infinito di Dio. Che cos'è la comunione dei santi? È la ripresa in termini diversi del credo la Chiesa, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ma con uno scopo particolare, per sottolineare i rapporti che intercorrono fra le membra di questo unico corpo di Cristo e la Chiesa, quindi tra noi cristiani, tra i santi del paradiso, le anime del purgatorio e noi che siamo ancora qui in terra, o se vogliamo riferirci all'altro simbolo usato da Gesù nel Vangelo di Giovanni, i rapporti che intercorrono tra noi tralci e l'unica vite che è Cristo. Quindi la comunione dei santi non è altro che il mistero del corpo totale di Cristo, Lui capo insieme con noi membra, per mettere in risalto i rapporti delle membra tra di loro, tra noi cristiani. In che cosa consistono questi rapporti? Allora, tra noi cristiani c'è la condivisione dello stesso nutrimento, perché tutti attingiamo la vita, la linfa, il nutrimento da Cristo. C'è la complementarietà dei servizi, c'è chi fa il Papa, il Vescovo, il Sacerdote, lo sposato. Il benessere comune, se tutti ci mettiamo al servizio degli altri, stiamo tutti bene. Poi c'è la sofferenza comune, quando tu soffri io patisco insieme con te, soffro insieme con te. La gloria comune, perché tutti ci diamo appuntamento in Dio nell'eternità, in paradiso. Se volete, per stare a un esempio umano scientifico, è il principio dei vasi comunicanti. E voi inserite qualcosa di nuovo, mettete del liquido in un vaso e vedete che sale il livello in tutti i vasi che sono comunicanti tra di loro. Noi siamo tutti inseriti in Cristo e per suo mezzo siamo collegati al Padre, collegati per mezzo dello Spirito a tutti i nostri fratelli, secondo la preghiera di Gesù che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17. Gesù parla con il Padre e dice: tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità. Ecco, la comunione dei santi è l'unione intima di tutti noi con Cristo, con il Padre, con lo Spirito. Comunione dei santi, cosa significa il termine, la parola santo? E noi corriamo subito all'uso comune di questa parola: è una persona perfetta nelle virtù. No, il termine santo di per sé ha un significato ancora antecedente a questo. Santo significa che appartiene a Dio. Certo che l'appartenenza a Dio ci deve poi portare piano piano a diventare anche santi nella mente, nel cuore, nella condotta, ma di per sé il termine santo vuol dire che è proprietà di Dio. Dunque la Chiesa è santa, ma non perché tutti i cristiani siano arrivati alla perfezione dell'amore e della carità, perché non peccano più. La Chiesa è un popolo di povera gente più che di eroi, ma è un popolo di santi perché è il popolo che appartiene a Dio, è il popolo di Dio. La Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, intitolata in latino Lumen Gentium, Cristo, luce delle genti, dichiara che a questa unità cattolica, a questa comunione dei santi, sono chiamati tutti gli uomini. A questa unità appartengono sotto diverse forme o sono ordinati sia i fedeli cattolici e coloro che comunque hanno già la fede in Cristo, sia tutti gli uomini, senza eccezione, che la grazia di Dio chiama alla salvezza. Quindi tutti sono chiamati da Dio a fare parte di questa comune unione degli uomini con Cristo e con il Padre. Noi possiamo dire dov'è la Chiesa, uno dice ma dove c'è il Papa c'è la Chiesa, diciamo sì, dove c'è un vescovo, una diocesi, una parrocchia, gente brava, praticanti, quella è la Chiesa, certamente possiamo dire dov'è la Chiesa, ma non possiamo dire dove la Chiesa non sia. Per esempio San Tommaso d'Aquino ci insegna: appartiene alla comunione dei santi tutto il bene che si compie nel mondo, e noi sappiamo che si compie tanto bene anche fuori dalla Chiesa visibile. Il libro della Sapienza ci insegna che lo Spirito del Signore riempie l'universo, quindi non è racchiuso solo nella Chiesa cattolica, ma riempie il cuore e la mente di tutti gli uomini. Per citare un autore moderno, Bernanos, egli scrive: «La comunione dei santi è quella di tutti gli uomini di buona volontà». E voi ricorderete che il Papa Giovanni ha dato un bellissimo avvio alle sue lettere pastorali, encicliche, ai fratelli vescovi, a tutti quelli che compongono il popolo cristiano e a tutti gli uomini di buona volontà, perché anche quelli fanno parte della Chiesa. Allora, nella Chiesa c'è comunione di beni. Tutti i cristiani partecipano ai beni di Gesù Cristo, ai beni dei fratelli e a tutto il bene che si compie nel mondo. C'è cassa comune, diciamo, nella Chiesa. Questa comunione si opera mediante i sacramenti della Chiesa che conferiscono i beni di Cristo, ossia la grazia di Dio a tutti quelli che li celebrano degnamente. Nell'antica tradizione della Chiesa, la comunione dei santi, prima di essere la condivisione delle preghiere, delle buone opere, delle persone sante, perché noi abbiamo in testa questo, comunione dei santi vuol dire comunione di Dio, dei santi, degli uomini, delle donne, insomma le persone, beh, prima di avere questo significato, la comunione dei santi è la partecipazione alle cose sante che si trovano nella Chiesa, a incominciare dai sacramenti e da tutto quello che è possesso della Chiesa, quello che Dio ha dato alla Chiesa. Communio sanctorum, per chi ricorda un po' di latino, vuol dire sì comunione delle persone sante, ma questo sanctorum è anche un neutro, comunione delle cose sante. Quindi, come ai figli attorno al tavolo di famiglia, i sacramenti spartiscono il tesoro comune, la presenza attiva del Cristo risorto nelle diverse situazioni del nostro viaggio terreno. E di che cosa è composto questo tesoro di famiglia, questa cassa comune? Fanno parte di questo tesoro i sacramenti, la parola di Dio, la liturgia, la preghiera pubblica e personale, le tradizioni dei padri, gli esempi dei santi e tutto il bene che Dio ha operato in tutti. Sia ben chiaro, tutto quanto noi siamo e tutto quanto abbiamo sono cose sante. Di queste cose sante noi non siamo proprietari, ma amministratori della multiforme grazia di Dio, come ci insegna Paolo nella prima lettera ai Corinti. Il disegno di Dio creatore per gli uomini è l'esistenza per gli altri, ossia vivere una vita di amore, una vita in cui ci si dona agli altri, a Dio e ai fratelli, un amore come è vissuto all'interno della famiglia, della comunità, della comunione di Dio. Dio che si dà completamente al Figlio suo Gesù Cristo e lo Spirito Santo che è l'amore del Padre e del Figlio. Quindi solo l'uomo per gli altri è immagine e somiglianza di Dio, perché Dio è tutto per l'altro, è tutto per gli altri, è tutto dono, tutto amore. Essendo la Chiesa una comunità di peccatori, dobbiamo ammettere che a questa tavola della comunione si siedono molti scrocconi e quanti portano all'interno della Chiesa solo la loro miseria, il loro sudiciume, la loro fame, ossia molti, noi, parlo di me, che entriamo dentro nella Chiesa, entriamo più che per portare soldi, ossia meriti, andiamo per portare i nostri debiti. E abbiamo una bellissima descrizione della comunità cristiana nella parabola del banchetto nel Vangelo di Luca al capitolo 14. La sala è riempita di poveri, zoppi, ciechi, storpi, di accattoni che non hanno nulla da perdere, tutto da guadagnare. Questi sono i cristiani di tutti i secoli. E voi chiederete, ma chi è che finanzia e rifinanzia questa baracca che è la Chiesa? È Dio l'azionista principale che finanzia e rifinanzia in continuità con il suo amore. E allora chiediamoci, chi di noi può dire di non essere in certi momenti un mendicante e una passività sul bilancio della comunità cristiana? Nella santità nascosta della Chiesa esiste una ricchezza continuamente traboccante alla quale possono attingere tutti i poveri, quali siamo noi, i poveri peccatori. Non possiamo passare sotto silenzio, parlando della comunione dei santi, la comunione con i nostri fratelli che ci hanno preceduto nel segno della fede, dormono il sonno della pace, ossia i nostri fratelli defunti. Dal Concilio Vaticano II, dalla Costituzione dogmatica sulla Chiesa, leggiamo: la Chiesa, fin dai primi tempi della religione cristiana, ha coltivato con una grande pietà la memoria dei defunti e ha offerto per loro anche i suoi suffragi. Ma anche su questo permettete un piccolo suggerimento. È una deviazione che si preghi più per i defunti che per i vivi, che si facciano dire più messe per i miei morti che per i miei vivi, mio marito, mio figlio, tanta gente che mi dà dei pensieri. Per i poveri del mondo, perché smettano le guerre, perché smettano le ingiustizie. Quindi è una deviazione che si preghi più per i defunti che per i vivi. Abbiamo già detto altre volte, i defunti sono già nelle mani di Dio, sono al sicuro. Noi siamo molto più indietro e più esposti al rischio anche della dannazione eterna. È anche una deviazione, se permettete, che si visitino più i cimiteri che gli ospedali e i ricoveri dove soffrono i nostri fratelli, che si preoccupi più delle indulgenze o di qualche devozione più o meno dolciastra che non della predicazione del Vangelo, della testimonianza di vita. Siamo nel mese missionario, il mese d'ottobre. Concludiamo questa prima parte ribadendo il concetto. È una deviazione che ci si preoccupi più delle indulgenze, della propria salvezza personale, che delle missioni. Thank you. fratelli, facciamo qualche considerazione anche sulla remissione dei peccati. Questo articolo del Credo ci rinvia subito e direttamente a un sacramento e voi subito bravi dite la confessione. No, la remissione dei peccati rinvia non tanto alla penitenza o confessione, ma al battesimo. Facciamo memoria del credo che abbiamo recitato oggi. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Il primo, il più grande sacramento per la remissione dei peccati è il battesimo. Il dono pasquale che Gesù ha fatto al mondo è la remissione dei peccati, un'effusione dello Spirito Santo che fa della comunità dei credenti il luogo e lo strumento della remissione dei peccati, della vita nuova, della vita divina negli uomini redenti da Cristo. E allora da dove deve nascere la nuova umanità, l'uomo riconciliato con Dio, l'uomo nuovo? La culla della nuova nascita dell'umanità e del mondo è proprio lì, nella Pasqua del Cristo, il quale ha detto ai credenti, alla Chiesa: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Quindi il battesimo è il punto di partenza della conversione di tutta la nostra vita. E quindi il battesimo rimane il segno costitutivo della vita cristiana. Con il battesimo si diventa di Cristo, si diventa cristiani. Ed è al battesimo appunto che rinvia immediatamente la nostra fede nella remissione dei peccati. Il sacramento della confessione, penitenza, viene solo dopo il battesimo come supplenza, come un secondo battesimo, che rinvia al nostro stato di battezzati per consolidarlo, potenziarlo, rinnovarlo. I padri della Chiesa dicevano che la confessione era come una tavola di salvezza quando si faceva naufragio nella vita del proprio battesimo. Parlando di remissione di peccati, è giusto che diciamo almeno qualcosina riguardo al peccato e riguardo al peccatore. Che cos'è il peccato? Leggendo il Vangelo di Giovanni, il capitolo 8, troviamo l'episodio della donna adultera che i giudei volevano ammazzare a sassate e che Gesù perdona e rimanda a casa sua. Lì possiamo cogliere l'atteggiamento di Gesù Cristo verso il peccato e anche verso il peccatore. Non dice a questa donna: brava, brava, continua a fare adulterio, ma la perdona e dice: vai a casa e non commettere più questo peccato. Gesù puntò il dito verso terra per non alzarlo né contro l'accusata, ma neanche contro i suoi implacabili accusatori. Gesù li ama tutti, ama quella donna lì che ha commesso adulterio e anche quei cattivi con il sasso in mano che la vogliono ammazzare. Li ama tutti intensamente, singolarmente, uno per uno. Il Vangelo ci dice che tutto finì con una confessione generale e con un perdono generale. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Se ne andarono via tutti, il che vuol dire che riconobbero che non erano senza peccato. Parliamo dunque di amore. Dio non ama il peccato, ma ama infinitamente il peccatore. Come il medico non ama la malattia, ma ama il malato. Come il genitore non ama la sporcizia dei suoi figli, anzi gliela lava via di dosso proprio perché ama i suoi figli. Come i genitori, li mettiamo nella categoria del medico, odiano le malattie dei loro figli proprio perché amano i loro figli. Dio amore vuole vivere con il suo popolo un profondo rapporto d'amore, quindi vuole eliminare dal suo popolo tutto ciò che è contrario all'amore e che può rovinare questo rapporto. Il peccato è il rifiuto di amare e di essere amati. Ogni peccato è un peccato contro l'amore. L'amore di Dio e l'amore del prossimo. Allora, se amare vuol dire vivere, essere come Dio, camminare verso Dio, verso la realizzazione, il peccato è tutto ciò che ostacola questo amare, crescere, incamminarsi verso la realizzazione di noi stessi. Il peccato consiste nello spezzare coscientemente, volutamente, malvagiamente questo profondo rapporto d'amore con Dio e con il prossimo. Il peccato stando alla Bibbia, cito Ezechiele capitolo 16, è un adulterio, il tradimento di un patto d'amore. Se qualcuno vuole documentarsi, va a leggere questo bellissimo brano di parola di Dio. Il peccato è un rifiutare Dio come padre, come creatore, come origine della nostra vita, quindi tagliarci di netto dicendo io sono autonomo, vivo senza Dio, la vita me la do da me. Quindi è un rifiuto di Dio come padre, della sua amicizia, della sua familiarità. Non riconoscere che noi abbiamo una dipendenza necessaria che ci lega come figli a questo Dio che è padre. Dio è il nostro vero padre, quello con la P maiuscola. Dio ha creato l'uomo, ogni uomo, per amore, facendolo, come ogni genitore, a sua immagine e somiglianza. Gli ha comunicato tutti i suoi beni, compresa la vita divina, ti do la mia vita, ti do tutto me stesso. Il peccato è la pretesa di rompere questo rapporto filiale, di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, come leggiamo nel libro della Genesi 2,17. Voi direte, che cos'è quest'albero della conoscenza del bene e del male? In parole brevi, è la pretesa di non avere nessuno al di sopra di noi stessi, di essere leggi a noi stessi, è bene quel che dico io ed è male quel che dico io, faccio io il legislatore, faccio io il Padre Eterno, di decidere come si vuole, su quanto è bene, su quanto è male. Mentre la verità è un'altra, il Padre sa di che cosa abbiamo bisogno, mentre noi non ci rendiamo conto e facciamo delle scelte sbagliatissime. Provate a ripensare, voi genitori, agli insegnamenti dati ai figli, insegnamenti giusti, calibrati, fatti di esperienza, di intelligenza. I figli dicono, no, è tutto sbagliato, faccio di testa mia, e poi sbagliano. E si dice, dovevi fidarti di tuo padre. Questa legge del padre non ha nulla che faccia pensare a un imperativo esteriore. Dio è un tiranno che ci dà dei comandamenti e poi se non li eseguiamo ci caccia tutti all'inferno. No, non è una proibizione arbitraria. La legge che Dio ci dà è quella di un rapporto di amore più che di signoria nei suoi confronti. Una legge di amore filiale. Voi siete i miei bambini. Fate quello che vi dico, che ve lo dico per il vostro bene. Quindi è una pazzia separarsi da Dio dal quale ci viene ogni cosa. Bene, il peccato è proprio questa pazzia. Il peccato è il rifiuto della condizione filiale. Io non sono più figlio di Dio, voglio andare per i fatti miei. È il rifiuto della dipendenza di vita e di amore da Dio, non riconoscere più Dio come sorgente del nostro essere, del nostro esistere. Ed ecco come conseguenza immediata e sommamente deludente, quando ci si stacca da Dio, la paura di Dio, l'angoscia della colpevolezza. Ricordate quello che dice Adamo nel libro della Genesi al capitolo 3. Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura e mi sono nascosto. Risultato immediato più lacerante e drammatico di questo distacco da Dio è la morte, ma non solo la morte fisica, fisiologica, la morte eterna, il vivere eternamente lontani da Dio, un vivere che è un morire, che è un andare verso una riduzione che arriva allo zero. Ci si sente tagliati via dall'albero della vita, come i rami che tagliati si seccano e servono solo per essere bruciati. La rottura nei confronti del padre trascina con sé, come in una reazione a catena, la rottura poi con gli altri fratelli, gli uomini, e anche con il mondo degli animali e delle cose. Spezzata la catena che ci univa a Dio e agli altri, la collana se volete, tutte le perle si sparpagliano e si disperdono. Ed ecco che la prima a risentirne è la famiglia coniugale. Adamo, dopo il peccato, dice a Dio spudoratamente, villanamente, la donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. È colpa tua, Dio, che bidone mi hai messo qui tra i piedi. È finita anche la famiglia fraterna. Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. è definita anche la famiglia sociale. E un discendente di Caino, Lamech, dice: ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. È finita anche la famiglia umana. Al capitolo 11 del libro della Genesi c'è quel racconto triste e drammatico della torre di Babele, dove gli uomini non si capivano più e allora se ne andarono ognuno per la sua strada e si sparpagliarono su tutta la faccia della terra. Rileggiamo i primi 11 capitoli della Genesi e constateremo che lì viene descritta la triste epopea del peccato del mondo, di un mondo in cui l'egoismo degli individui e dei gruppi ha sostituito la legge dell'amore. E oggi, se vogliamo rifare un mondo dove si può vivere da fratelli e da figli dello stesso padre, bisogna eliminare dal mondo l'egoismo degli individui e dei gruppi e sostituire l'egoismo con l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Chi pretende di costruire da se stesso indipendentemente da Dio si metterà contro gli altri, strumentalizzerà gli altri, soprattutto i piccoli e i deboli, perché è chiaro che è il grande che ha la forza per poter eliminare o sottomettere il piccolo. E allora, visto che si parla di peccato, il peccato del mondo è il peccato di chi abusa della sua forza, di qualunque genere, religiosa, politica, economica, culturale, fisica, per occupare un posto vantaggioso sulle rovine, l'oppressione e lo sfruttamento degli altri, dei più deboli. Abbiamo detto che usa la sua forza religiosa, politica, economica, io coi soldi schiavizzo tutti, culturale, io ho studiato e quindi riesco a bidonare gli altri con una disinvoltura, l'imbroglio e me li metto tutti in tasca. E questo è il peccato che ha ucciso Dio in Gesù Cristo. Tale è il peccato della rivelazione nell'Antico Testamento, un dramma d'amore, dramma coniugale fra sposi, Dio che dice: io sono il tuo sposo Israele e tu continui a tradirmi con altri amanti, con gli idoli. È il dramma familiare fra padre, Dio creatore di tutti, e i figli che si ribellano a questo padre e che vogliono fare di testa loro, commettendo un'infinità di drammi, di guai e di tragedie. Vogliamo che il nostro mondo presente diventi, per quanto è possibile, un'anticamera del paradiso e non un'anticamera dell'inferno? Bisogna ritornare a instaurare la legge dell'amore di Dio e la legge dell'amore del prossimo, perché l'amore è esattamente il contrario del peccato, di tutti i peccati, di tutto il male che ci fa soffrire in questa vita. Riprendiamo questa breve catechesi sulla remissione dei peccati. Gesù nel Vangelo ci insegna che il peccatore è colui che si soffoca nelle ricchezze, negli affari, nei piaceri di questo mondo, al punto di essere attirato più da questi idoli che dagli appelli di Dio, dalla voce di Dio. Ci racconta, per esempio, in una parabola, che gli invitati da Dio al banchetto di nozze di suo figlio con l'umanità portano come scusa che hanno un terreno da vedere, dei buoi da provare, che hanno preso moglie, quindi non possono lasciare sola la moglie per andare da Dio. Sia chiaro. Falciare un prato, aggiogare un paio di buoi, sposarsi, tutto questo non è cattivo o proibito da nessun comandamento, anzi è una cosa buona, ottima. Allora dove sta il peccato? Il peccato è mettere Dio all'ultimo posto, dopo tutto il resto, anche se vado a messa tutte le domeniche, però dopo quella parentesi di un'ora di messa, bene, ho messo a posto Dio, Dio è lì tranquillo, gli ho dato un boccone per tenerlo buono. Adesso ho altro da fare, ho altro a cui pensare. No. Il peccato non è l'agire quotidiano, il lavorare, il prendersi cura della propria famiglia e dei propri affari, ma il dimenticare la presenza sconvolgente dell'amore di Dio e del prossimo al centro di questa quotidianità, di questa nostra vita feriale. Il peccato è il costruire la nostra vita come se Dio non ci fosse. Io credo che c'è Dio, però dopo che ho detto così, vivo come se non ci fosse, faccio tutto io. La vita di una settimana non è formata da un'ora di messa dedicata in qualche modo alla messa, perché è precetto, sa, perché se togliessero il precetto non andrei neanche alla messa. Il peccato è questa mancanza di attenzione quotidiana all'essenziale, che è Dio, che è l'amore. È l'indifferenza alla continua presenza di Dio nella nostra vita. Dio è con me, dentro di me, 24 ore al giorno. È la preferenza accordata a persone e cose che non sono Dio o sono viste fuori dalla visione di Dio, in contrasto con Dio. Contro il comandamento dell'adulterio vado dall'amante. Contro il comando di Dio che dice non rubare, io arraffo tutto perché voglio diventare ricco sfondato. Questa è una vita da adulteri, da persone che non amano Dio, sposo della nostra vita, ma fanno l'amore con tutto e con tutti, fuorché con Dio, quindi gli fanno le corna. Il peccato è anche il rifiuto di considerarsi per quello che si è realmente, figli di Dio, creature di Dio. E quindi, come ci riferisce Luca nel capitolo 15, il capitolo della misericordia di Dio, alla larga dal padre. Un padre aveva due figli, il più giovane disse: dammi la parte di eredità che mi spetta, e partì e se ne andò lontano, il più lontano possibile, alla larga dal padre, o quindi poi di conseguenza anche alla larga da mio fratello che è rimasto lì in casa dal padre. Quindi il peccato è cercare di allontanarsi il più possibile da Dio e dal prossimo. Il ricco della parabola, quello che è chiamato il ricco epulone, che vuol dire mangione, quello che faceva dei pranzi, sembra che vivesse solo per mangiare, è tutto avvolto nei suoi vestiti di lusso, si rimpinza, mentre Lazzaro guarda invano le briciole che cadono dalla sua tavola, ma nessuno gliene dà. Altra parabola del Vangelo: il sacerdote e il levita escono dal tempio e pensano di essere a posto. Noi siamo andati a fare la funzione religiosa, il culto di Dio. Non è faccenda loro se poi il ferito sta morendo sul ciglio della strada. Il peccato è questo: il mangiare a crepapelle dimenticando che altri muoiono di fame. Il credere che una volta che si è stati in chiesa, poi fuori, dopo, non tocca più a noi. No. Allora cosa dobbiamo dire, ritornando al nostro tema? Dio è nemico del peccato, di questo peccato che è sempre e solo una mancanza d'amore. Però Dio non è nemico dei peccatori, di quelli che non amano, di quelli che fanno del male. Dio è nemico del male, non del peccatore. Gesù ci comanda di amare i nostri nemici, che sono quelli che ci fanno del male, perché lui l'ha fatto per primo, ha amato i nemici. Ha detto sulla croce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. I contemporanei di Gesù aspettavano un Messia vendicatore di Dio. Arriva lui e dice: allora, io sono amico di Dio, voi siete nemici, vi ammazzo tutti. Giovanni Battista aveva detto: arriverà, ripulirà l'aia, butterà nel fuoco la pula e la paglia e brucerà tutti i rami secchi e le piante che non producono frutto. Ma Giovanni Battista avrà la stessa amara sorpresa di Giona quando si mise lì per contemplare la distruzione di Ninive. Invece dell'ira di Dio è arrivato Gesù. E Gesù vuol dire Dio che viene a salvare, non Dio che viene ad ammazzare, a distruggere, a dare il colpo di grazia ai peccatori. Gesù ama i peccatori. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 15, si avvicinavano a lui i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. E i suoi nemici dicono: riceve i peccatori e mangia con loro. Gesù quindi cerca i peccatori, li trova e invita anche noi che crediamo scioccamente di essere giusti a fare festa e a rallegrarsi con lui, perché, dice, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ricordiamoci che questo peccatore convertito che fa contento Dio è ognuno di noi, perché siamo noi la pecora perduta e il peccatore che deve convertirsi. Nel Vangelo di Giovanni troviamo una splendida frase. Gesù dice: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Ecco, allora, il perdono dei peccati è un dono gratuito di Dio che viene e dice: io non vengo per farvela pagare, vengo per perdonarvi, per recuperarvi a mie spese. Questo è l'insegnamento commovente della parabola del fico sterile, che troviamo per esempio nel Vangelo di Luca al capitolo 13. Il fico, ci chiediamo, sarà tagliato o no? Sarà l'albero a decidere. Io che sono un cristiano sterile, che non produco amore e opere di bontà, sarò tagliato o sarò lasciato ancora qui in questo tempo nella vita? Sarò io a decidere. Adesso la vita presente è il tempo dell'amore del vignaiolo per quest'albero. Cristo, quando uno è peccatore, gli dedica ancora più cure che agli altri. È il tempo della pazienza e della speranza del padrone. Il vignaiolo Gesù raddoppierà sforzi e grazie. Il Signore usa pazienza verso di voi, scrive Pietro, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Ed ecco, allora, noi siamo questi fichi sterili, fichi che non fanno un fico, ai quali Gesù Cristo dedica ancora tempo e pazienza per vedere se ci decidiamo a lasciarci amare da Lui e a risvegliare anche dentro di noi la capacità di amare Dio e di amare il prossimo. Qui c'è da chiarire anche una cosa. La remissione dei peccati non risponde a un pentimento dell'uomo. Quando io mi pento, Dio mi perdona. No, assolutamente no. Il perdono di Dio, la remissione dei peccati, viene prima ancora che io nasca. Dall'eternità Dio aveva già previsto che io avrei peccato e dall'eternità ha già detto: io ti perdono. 2000 anni fa Cristo è morto sulla croce per la remissione di tutti i peccati, compresi i miei. Quindi il perdono di Dio c'è già da sempre, prima ancora che io nascessi. Lo dice la parola di Dio. E leggiamo dalla prima lettera di Giovanni: in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. E notate che l'ha mandato prima che io nascessi e che voi nasceste. Quindi, questo articolo del Credo, credo la remissione dei peccati, significa: credo la remissione dei peccati gratuita, data in anticipo da Dio dall'eternità, definitivamente Dio mi ha perdonato tutto. Non mi perdona se io gli chiedo perdono. Il perdono di Dio non è una risposta a un gesto del peccatore. No, Dio non reagisce, Dio agisce, dice: io vi perdono tutti qualunque cosa succeda. Ne troviamo conferma nella lettera di Paolo ai Romani al capitolo 5. Cristo morì per gli empi, ossia per tutti gli uomini peccatori. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi ha perdonato i nostri peccati morendo, mentre noi eravamo ancora peccatori e avremmo fatto ancora dei peccati. Quindi il perdono ci è stato dato in anticipo. Diciamoci la verità, noi ci siamo fabbricati in testa un falso Dio incapace di fare per primo quello che pretende, richiede che facciamo noi. A noi nel Vangelo ha detto: devi presentare l'altra guancia, se uno ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. Devi perdonare i nemici, devi amare anche quelli che non ti amano, devi perdonare 70 volte 7, ossia sempre. Se Dio richiede da noi questo, è perché prima l'ha fatto Lui e lo fa Lui. Gesù ci grida: amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo. Perché? Ecco perché, ecco come è questo Dio Padre da cui siamo nati. Perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Ecco lì la sorgente dell'amore, della capacità di dono e di perdono. Dunque, l'articolo del Credo ci vuole insegnare questo. Credo la remissione dei peccati data prima di ogni mio pentimento incondizionatamente. Credo che i peccati di tutti sono già stati tutti perdonati. Voi dite: ma allora? E allora diciamo subito e concludiamo: per perdonare basta Dio solo, perché Egli è amore e quindi ci ama, e con il suo amore vuole distruggere la nostra mancanza d'amore, che è il peccato. Ma non basta che ci sia Dio che perdona sempre a tutti e senza mettere condizioni. Per riconciliarsi, ossia per rimetterci in contatto, d'accordo, noi con Dio, per riconciliarsi bisogna essere in due. Scusate, se tu litighi con tua moglie o tu moglie litighi con tuo marito e poi dici: io ti perdono e ti amo con tutto il mio cuore, e l'altro dice: e io non voglio, e io non perdono, e io non ti amo più, tu hai fatto la tua parte, hai perdonato, ma veramente, completamente, generosamente. Ma per riconciliarti, ossia per rimettere in circolo l'amore tra te e lui, bisogna che anche lui ci stia, che anche lui spalanchi il cuore per lasciare entrare il tuo perdono, il dono della tua vita. Per riconciliarsi bisogna essere in due. Il Padre, Dio, potrà abbracciare il figlio prodigo della parabola, e ognuno di noi che siamo dei figli vagabondi, scioponi e sbrindellati, Dio potrà abbracciare ognuno di noi che siamo i suoi figli soltanto se torniamo a lui liberamente, perché non ci costringe mica, rispetta sempre la nostra libertà. Quindi Dio perdona gratis, a noi spetta però un atteggiamento fondamentale: accettare il perdono. Te lo dono gratis, se io dico lo voglio lo prendo, se io lo rifiuto io rimango con il mio peccato, non perché Dio non mi perdona, ma perché io non voglio essere perdonato. È quello che il Vangelo chiama peccato contro lo Spirito Santo. È proprio questo. Il Vangelo dice: non sarà perdonato questo peccato, né in questa vita né in quell'altra. Uno dice: vedi allora che anche Dio non perdona proprio tutto. Il peccato contro lo Spirito Santo è l'atteggiamento di noi uomini che ci ostiniamo a non voler essere perdonati da Dio. Siccome Dio ci lascia liberi, non ci violenta, non ci costringe a dire: e tu devi accettare il perdono con la violenza, se non lo accetti con le buone, lo devi accettare con le cattive. No. Dio perdona tutti, Dio la sua parte l'ha fatta e continua a farle splendidamente. La nostra parte consiste nell'accogliere gratuitamente il perdono che Dio ci dà, con un amore e una tenerezza infiniti. Carissimi ascoltatori, dedichiamo questa ultima parte ai mezzi che Dio ha a sua disposizione e che offre a noi per perdonarci i peccati. Voi sapete per esperienza che chi ama di vero amore sa trovare molte strade per arrivare al cuore della persona amata. Bene, Dio è un innamorato ostinato. E l'ostinazione di Dio nell'amore e nel perdonare non si lascia battere dalle trovate che abbiamo noi per perseguire gli scopi del nostro amore umano. Leggiamo nella prima lettera di Paolo a Timoteo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e quindi vuole togliere via i peccati di tutti, perché è il peccato che ostacola la salvezza. Nel Vangelo di Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo perché il mondo si salvi per mezzo di Lui, di Cristo. Queste altre parole di Dio sparse abbondantemente nella Bibbia dovrebbero martellarci nella mente e cantarci nel cuore giorno e notte. Dio vuole perdonare tutti, vuole amare tutti, vuole salvare tutti per piacere. Non rinchiudiamo, non incapsuliamo Gesù Cristo e la potenza del suo sangue versato per noi e per tutti in remissione dei peccati e la forza divinizzante della sua risurrezione nelle nostre ottuse misure o peggio ancora chiusure di praticanti gretti. Alle volte siamo di un'ottusità, di una cattiveria che è scandaloso il nostro atteggiamento. Il male dell'uomo, quindi il mio male, il tuo male, è uno solo. L'uomo non sa amare. E allora permettiamo almeno che il buon Dio sia il buon Dio, Lui che è un amore infinito, ma permettiamo che ami tutti infinitamente. Non siamo invidiosi perché Lui è buono. La sua bontà va oltre la giustizia, senza ledere la giustizia. Dio dà a tutti quello che meritano e dà infinitamente di più, regalando. Abbiamo detto che il grande mezzo per il perdono dei peccati è il battesimo. Ecco, i sacramenti del battesimo e della riconciliazione o confessione sono i mezzi privilegiati della remissione dei peccati. Andiamo a confessarci, anche spesso fa bene, toglie via tutte le magagne, le malattie, i peccati, i malesseri spirituali. Poi c'è anche l'altro sacramento, l'unzione degli infermi, un sacramento per la remissione dei peccati. Leggiamo nella lettera di Giacomo: e se il malato avrà commesso dei peccati, gli saranno perdonati, proprio per l'unzione degli infermi. L'andare alla comunione, l'Eucarestia, a condizione che non vi si acceda in situazione di sacrilegio, ossia ho fatto dei peccati enormi, di una cattiveria unica, odio Dio il prossimo e vado alla comunione lo stesso, dice, è impossibile, guarda che la comunione è un gesto d'amore e quindi ci devi andare riconciliato con Dio. Bene, l'Eucarestia rimette i peccati. La comunione è il culmine della riconciliazione con Dio e con la comunità. Ricordate il figlio che ritorna da lontano, il figlio prodigo, viene perdonato dal padre e viene invitato subito a una grande cena, a un grande pranzo di festa con musica e danze. Questo grande pranzo di festa è l'Eucaristia. Allora diciamo, la Chiesa, comunità dei cristiani, assemblea dei cristiani, ossia ogni gruppo di cristiani, ogni famiglia, la tua famiglia, è luogo di perdono e di remissione dei peccati. Ogni bene che è vissuto nella Chiesa è remissione dei peccati. Proviamo a farne una piccola lista, non esaustiva. L'amore che tu hai per gli altri ti cancella i peccati. Il servizio nei confronti degli altri, la preghiera, il lavoro, il sorriso, le lacrime, la sofferenza, la vecchiaia, la giustizia, la carità, la penitenza, l'azione di grazia, ossia il ringraziare Dio, la vita e la morte, tutto quello che si vive per amore di Dio e del prossimo, ci cancella i peccati. La Chiesa è un immenso inceneritore di rifiuti, dei peccati, intendiamo, delle debolezze, dei peccati quotidiani. La Chiesa è un depuratore sempre in attività, una lavanderia provvista di attrezzature modernissime e del detersivo che lava così bianco che più bianco non si può, e questo detersivo è l'amore di Dio, lo Spirito Santo. Non crediate che sia una battuta presa dalla pubblicità, è la pubblicità che ha copiato dalla Bibbia. del miserere, noi troviamo questa espressione: lavami e sarò più bianco della neve. Dunque, ripetiamo, i sacramenti sono i mezzi privilegiati per la remissione dei peccati, ma non sono gli unici mezzi. Ogni bene vissuto nella Chiesa è remissione dei peccati, e ve ne faccio una piccola lista copiandola di sana pianta dalla Bibbia. La carità cancella i peccati. Leggiamo nella prima lettera di Pietro 4:8. La carità copre una moltitudine di peccati. L'elemosina cancella i peccati. Libro del Siracide, capitolo 3, versetto 33. L'elemosina espia i peccati. Le lacrime cancellano i peccati. Una donna si rannicchiò piangendo ai piedi di Gesù e incominciò a bagnarli di lacrime. Luca capitolo 7. La manifestazione o confessione delle nostre colpe a Dio ci ottiene il peccato. Salmo 32, versetto 5. Ti ho manifestato il mio peccato. Non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe. E tu hai rimesso la malizia del mio peccato. L'afflizione del cuore e del corpo, dal Salmo 25, versetto 18, leggo: vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati. L'emendamento della vita, il correggersi, il convertirsi, ottiene il perdono dei peccati. Leggo dal profeta Isaia, capitolo 1, versetti 16-18. È Dio che parla: lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. L'intercessione dei santi e la preghiera dei nostri fratelli cristiani ci ottiene il perdono dei peccati. Leggo dalla prima lettera di Giovanni: se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita. Dalla lettera di Giacomo al capitolo 5, la preghiera fatta con fede salverà il malato, il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Noi quando andiamo a messa diciamo praticamente tutte le volte: confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato. Poi continua questa proclamazione: supplico voi, fratelli, qui presenti in chiesa, di pregare per me il Signore Dio nostro, per ottenere che cosa? Quello che segue: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. C'è poi un'altra azione importantissima che ci ottiene il perdono dei peccati: il perdonare agli altri le loro colpe nei nostri confronti. Leggo dal Vangelo di Matteo al capitolo 6, versetto 14. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Diciamo ancora un'ultima buona azione, ma non è esaustiva questa lista. La leggiamo dalla lettera di Giacomo al capitolo 5, versetto 20. Parla della conversione del peccatore e dice: chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Tu aiuti un peccatore a convertirsi, a ritornare sulla strada buona? Bene, Dio ti salva e ti perdona una moltitudine di peccati. Allora, per riassumere e poi concludiamo, Certamente la confessione è lo strumento grandioso per il perdono dei peccati dopo il battesimo, che è il sacramento più importante di tutti per la remissione dei peccati. Ma non esiste solo quello. Quando noi diciamo il Padre nostro, diciamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, se parliamo con convinzione e con fede, in quel momento Dio ci dà il perdono, perché glielo stiamo chiedendo, diversamente sarebbe tempo perso pregare. Quando leggiamo il Vangelo con fede noi otteniamo il perdono dei peccati. Gesù nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni dice: voi siete già mondi perché avete ascoltato la mia parola. Ossia, ascoltare la parola di Dio ci purifica la coscienza, ci toglie via i peccati. Lo si dice tutte le volte che si celebra la messa. Il sacerdote, appena finisce di proclamare il Vangelo, aggiunge: la parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. E se lo dice per volontà della Chiesa è perché la parola del Vangelo cancella davvero i nostri peccati se l'accogliamo con fede. E i mezzi sono tanti ancora. Vediamo di concludere. Ciò che abbiamo detto fino qui per i cristiani dentro la Chiesa vale in modo, se volete, incosciente, incompleto. Forse loro non lo sanno, ma vale tuttavia in un modo reale ed efficace anche per i non cristiani. Anche a quelli Dio perdona i peccati. Dio vuole la loro salvezza, e la conoscenza della salvezza, come ci insegna Luca, consiste nella remissione dei peccati. Gesù è morto ed è risorto anche per loro, per tutti gli uomini. Il Figlio di Dio ha fatto propria questa condizione umana concreta, quella vissuta da ogni uomo in ogni situazione, a ogni latitudine, dentro o fuori della Chiesa visibile. Quindi, diventando uomo, è diventato fratello di ogni uomo e di ogni donna. Ogni uomo è figlio di Dio, fratello di Gesù e fratello nostro. Cristo e l'uomo sono tutt'uno. Ce lo ripeterà il giorno del giudizio, se oggi proprio siamo così duri da non volerlo capire. Avevo fame e sete in ogni uomo, tu mi hai dato da mangiare e da bere, tu me l'hai rifiutato, tu vieni in paradiso, tu resta fuori, perché ero io quel tale, mi sono identificato in ogni uomo, in ogni donna che hai incontrato nella vita. Ogni uomo con assoluta certezza incontra la grazia del perdono, la grazia della crescita nella vita cristiana e nella santità, la grazia della salvezza, la grazia della vita di figlio di Dio in Gesù Cristo. Anche se quest'uomo, per ignoranza, o perché noi non gli abbiamo annunciato il Vangelo, o perché non ci siamo spiegati bene, magari è tutto preso, è militante in buona fede, magari anche contro la Chiesa, Dio e Cristo, perché gliel'abbiamo presentati come suoi nemici, non come suoi alleati. Quante volte ancora adesso noi crediamo che Dio sia il nostro avversario, e lo diciamo anche agli altri. L'avversario è il diavolo, Dio è con noi, è dalla nostra parte, è nostro alleato, gioca nella nostra squadra, non nella squadra avversaria. Ecco allora, chiunque ama e serve l'uomo, ama e serve Cristo. Questo lo dice il Vangelo. Il giorno del giudizio, sia quelli che Cristo chiama al paradiso, sia quelli che andranno all'inferno, chiederanno al Signore Gesù: ma quando mai ti abbiamo incontrato, ti abbiamo conosciuto? E lui dirà: ogni volta che avete fatto queste cose ai miei fratelli, a uno dei miei fratelli, anche il più piccolo e più indegno, l'avete fatte a me. E ogni volta che non le avete fatte, l'avete rifiutate a me. Perché Cristo, ripeto, si identifica con ogni uomo. Cristo ha detto: se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. È impossibile affermare con forza maggiore la remissione dei peccati per chiunque ama. E allora io vorrei anche suggerire a voi un pensiero: ma chi a questo mondo almeno un po' non ama proprio del tutto? È possibile pensare che un uomo sia totalmente cattivo, totalmente chiuso all'amore di Dio e del prossimo? Io penso di no. L'amore, ogni amore degno di questo nome, produce la remissione dei peccati, perché l'amore è da Dio, e quindi dove c'è l'amore c'è Dio, e dove c'è Dio scompare il peccato, come dove arriva la luce scompare la tenebra, dove arriva Dio scompare il diavolo. L'amore è da Dio, e chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio, ama Dio. Fratelli, concludiamo questa breve catechesi, fatta così proprio di accenni sulla remissione dei peccati. Dio ha una voglia infinita di perdonare tutti e di riconciliarsi con tutti. Purtroppo noi abbiamo poca voglia di accogliere l'amore e il perdono di Dio. Il Signore ci solleciti, noi cristiani credenti e praticanti, anche tutti gli altri, a lasciarci amare da Dio, a lasciarci perdonare da Dio. C'è più gioia per Dio, per un peccatore che si lascia perdonare e si converte, che per 99 giusti che non hanno bisogno di perdono e di misericordia.